Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis, 78esima puntata di Mr. Kilowatt, l'ultima che dedicheremo espressamente al risparmio energetico. Abbiamo cercato negli scorsi mesi di percorrere, per così dire, a bassa quota il territorio del risparmio energetico, andando in cerca delle singole opportunità e tecnologie. Questa sera ci solleviamo un po' più in alto e proviamo a tirare le fila di quanto abbiamo capito e visto finora. Ci facciamo aiutare in questa analisi da due ospiti: Dario Di Santo, direttore di FIRE, la Federazione Italiana di Risparmio Energetico. Buonasera Di Santo. Buonasera. L'altro ospite è invece Vincenzo Albonico, presidente di AGESI, ovvero l'Associazione Imprese di Facility Management ed Energia. Buonasera Albonico. Buonasera Melisse. Eccoci qua. Allora, io ho una domanda con la quale vorrei cominciare, che rivolgo a tutti e due. C'è un rapporto del CESI, che tra l'altro è uscito abbastanza di recente, nel quale si vede come l'efficienza che è stata fatta finora sia concentrata prevalentemente nel settore abitativo. Come mai invece fa fatica a penetrare questo concetto del risparmio energetico nell'industria? Di Santo. Ma diciamo che da una parte nel residenziale c'è stato il meccanismo delle detrazioni fiscali al 55%, che indubbiamente ha aiutato, è un buon incentivo e ha stimolato molto il mercato. Dall'altra non è che nell'industria e nel terziario non si facciano interventi, diciamo che da una parte è un po' più difficile quantificarli perché tendono un po' a rimanere più nascosti, dall'altra nel caso dell'industria si sono sicuramente mischiati molto al problema della crisi. Diciamo. Però ecco, sembra che ci sia anche un elemento di carattere, come dire, un po' culturale, non so anche lei Albonico cosa ne pensa. Ma guardi, sostanzialmente sul settore abitativo sono d'accordo con quello che dice Di Santo. Aggiungo una sola cosa: abbiamo fatto tanto, sì, ma forse non abbiamo fatto molto bene. Non abbiamo fatto molto bene nel senso che abbiamo fatto degli interventi non ben calibrati in molti casi. L'incentivo ha spinto tutti a cambiare dei componenti, ma non si è lavorato, secondo me, secondo noi, dal punto di vista della progettazione integrata per fare una riqualificazione reale degli impianti. E qui credo che le ESCO abbiano delle responsabilità, perché su questo credo che debbano fare molto di più. Addirittura prefinanziando le opere e facendo a meno in qualche caso degli incentivi che oggi vengono forse distribuiti in maniera un po' troppo semplicistica. Sull'industria anche qui si è lavorato tanto, si è lavorato sui processi, c'è molto ancora da fare, in modo particolare sul campo della cogenerazione, che oggi soffre purtroppo di mali che speriamo che il governo, con l'aiuto delle associazioni, riescano a risolvere. Ricordiamo agli ascoltatori che le ESCO sono appunto quelle aziende la cui mission consiste nel fare efficienza energetica presso terzi, diciamo, eventualmente finanziandosi col risparmio energetico che viene conseguito. Qui mi sembra che uno dei problemi sia quello appunto di reperire capitali iniziali. Le volevo chiedere quali erano i limiti operativi delle ESCO, lei in qualche modo li ha già accennati, quali sono le difficoltà che incontrano di più? Ma vede, i capitali, io sono convinto che i capitali si possano trovare. Oggi le aziende di AGESI investono circa 600 milioni di euro all'anno in interventi di riqualificazione prefinanziati. Potrebbero investire molto di più se le norme fossero effettivamente un po' più fluide e consentissero alla gente di lavorare. Dunque Di Santo, più volte noi ne abbiamo anche parlato personalmente, invece uno dei, diciamo, dei dati che è emerso durante queste 80 puntate e che è critico è quello della misura. Qui sembra che ci sia proprio un altro problemino di quelli culturali, ossia il fatto che difficilmente si accetta di investire delle risorse per misurare i propri consumi e capire come si consuma e di conseguenza anche come si spreca. È una soglia psicologica questa? È un problema? Ce ne sono altre di soglie psicologiche di questo tipo? Forse non piace molto il cogito ergo sum. Diciamo che nella pratica c'è sicuramente un ostacolo psicologico. Devo tirar fuori i soldi per misurare qual è la situazione attuale. Non ho di per sé garanzie che poi si riesca a fare qualcosa, quindi magari sono un po' riluttante. Nella pratica le esperienze dimostrano che ogni volta che qualcuno crede nell'investire, nella misura, nella conoscenza, poi è ampiamente ripagato dai risultati che ottiene. Sicuramente sarebbe opportuno cercare di sensibilizzare gli utenti finali a cercare di spendere un po' di più su questi aspetti conoscitivi, che sono fondamentali, perché senza di quello non si va da nessuna parte. Tra l'altro sono fondamentali a maggior ragione nel momento in cui il pubblico, come dire, lo Stato ci mette delle risorse economiche. Forse Albonico prima, quando diceva che si è fatto, ma forse non si è fatto molto bene, ecco, questa è una delle ragioni. Non è solo un problema del singolo che deve poi su quella base identificare i migliori interventi di risparmio, è anche un problema dello Stato, del governo regionale, dell'ente locale, che deve capire come viene consumata l'energia e in che modo intervenire. Se io non ho dati statistici affidabili sugli aspetti energetici, è chiaro che anche le mie politiche energetiche sono per forza di cose deboli, e questo è un problema strutturale che l'Italia ha. D'accordo. Ecco, un'altra cosa che mi sembra emersa abbastanza chiaramente è come noi paghiamo appunto il prezzo, non solo noi in Italia per la verità, di, oserei dire, quasi 200 anni durante i quali insomma si è sviluppata tecnologia senza preoccuparsi che fosse troppo efficiente. È proprio la cultura, anche quella ingegneristica, che mi sembra un po' debole da questo punto di vista. Cioè gli ingegneri imparano a far funzionare le cose. Anche io, che faccio parte della categoria, ho avuto questo tipo di formazione. Probabilmente oggi qualcosa sta cambiando, ma come si può fare? La domanda è rivolta a tutte e due, a fare una bella iniezione di cultura sulla progettazione dell'efficienza. Continuando sulla strada intrapresa da alcune università con corsi laurea dedicati, rafforzando questa strada, che sicuramente è il primo passo, perché fino adesso se ne era parlato sempre poco di aspetti energetici all'interno delle università, e dopodiché molto lo farà il mercato, perché quando il mercato trascina verso certe direzioni automaticamente il professionista si adegua, tant'è vero che tantissimi professionisti negli ultimi anni hanno partecipato a corsi di formazione sull'energia proprio perché volevano cominciare ad operare in questo settore. Io però ho la sensazione che il problema della formazione rivolta ai giovani sia ovviamente determinante, ma rischi di arrivare un po' tardi con gli effetti che auspicabilmente invece noi tutti attendiamo. Mi domando se su chi adesso occupa quelle posizioni nelle quali si prendono decisioni, non sto parlando di politica, parlo proprio di posizioni anche tecniche all'interno delle imprese, e nei confronti di costoro si può fare un'operazione non di sensibilizzazione, ma proprio aggiungere quel pezzo di cultura ingegneristica che manca. C'è una possibilità di questo genere? Mi domando se le ESCO, per esempio, riescono a contribuire. Albonico? No, io direi che lo possono fare, lo devono fare, lo possono fare, alcune lo fanno, non tutte, perché naturalmente non si può fare di tutta l'erba un fascio, e anche gli ordini professionali devono fare la loro parte. D'accordo, va bene, allora grazie Di Santo, grazie Albonico. Grazie a lei. Di nuovo grazie a lei, arrivederci e buon lavoro. Buona serata a tutti. Bene, Mr. Kilowatt si chiude qui. Come avete capito, si chiude anche il viaggio di Mr. Kilowatt attraverso il territorio del risparmio energetico, ma da lunedì riprendiamo un nuovo viaggio, andremo a esplorare il mondo delle rinnovabili. Quindi buon fine settimana a tutti, ci sentiamo lunedì.